amerei con maggior passione. Sei troppo chiaro tu, sei troppo serio sai. Io invece sull'amore non ci scommetto mai. Se ti voglio bene.